327. Arostini di vitella di latte alla salvia. Questo piatto si forma con la lombata di vitella di latte priva di pelletiche e col suo osso attaccato e tagliata a bracciuole sottili. Servitevi di una sauté o di una teglia di rame e mettetela al fuoco con alcune foglie intere di salvia e un pezzo di burro proporzionato. Quando avrà soffritto un poco, gettateci le bracciuole e mentre rosolano a fuoco vivo, salatele da ambedue le parti, poi spargeteci un po' di farina e terminate di cuocerle con la marsala. Devono restare con poco umido, dato che con grammi 500 circa di lombata pulita dal superfluo, formiate 6 di dette bracciuole, basterà un dito scarso di bicchiere di marsala e semmai un po' di sugo di pomodoro, della farina, un cucchiaino.